essere e avere. Con la colonna sonora di The Artist, premio Oscar 2012, apriamo il focus sui trend di questa settimana, protagonista una tendenza che abbiamo chiamato Classic Reloaded. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Come può un film muto trovare così tanto successo di pubblico e di critica nell'era del 3D? Miracoli del Classic Reloaded, il classico riattualizzato, rivitalizzato, mescolato a sensibilità ed elementi contemporanei. Nouveau retro, neo vintage, techno vintage, sono molte le definizioni per questa tendenza. Parliamo di consumi che abbinano un'estetica nostalgica a un cuore high tech, dalla moda al design, passando per il cibo, i locali, l'arte, la comunicazione. Patrizia. Il concetto di reloaded, per cominciare, reloaded significa in buona sostanza dare nuove espressioni a forme, estetiche, prodotti originali, classici, tradizionali, oggetti iconici in qualche modo evergreen che vengono riproposti un po' diversi ma riconoscibili e con il DNA immutato. Cominciamo con alcuni esempi noti, notissimi dal mondo del design per capire di cosa stiamo parlando. Per esempio, mobili dalle precise silhouette, ma prodotti con materiali contemporanei, per esempio la plastica, una citazione pop famosissima, le sedie Louis Goss di Cartel, disegnate da Philip Stark, trasparenti o colorate, oppure la serie di posate Deluxe di Pandora Design, che riproducono le fattezze dei servizi d'argento, però in materiali e colori che creano una sorta di cortocircuito tra l'oggi e il loro ieri. E c'è una serie TV che interpreta molto bene questa tendenza. Si tratta di Sherlock, prodotta dalla BBC, è liberamente tratta dalle opere di Sir Conan Doyle. Mio Dio, ma che cosa avete dentro i vostri piccoli cervelli? Il cappotto è ancora umido, è stato sotto una forte pioggia nelle ultime ore, niente pioggia a Londra, anche sotto il colletto è umido, l'ha alzato per proteggersi dal vento. Ha un ombrello, ma è asciutto e inutilizzato. Non solo vento, vento forte, troppo forte per usare l'ombrello. Capiamo dalla sua valigia che voleva restare una notte, quindi deve venire da una distanza ragguardevole, ma non deve aver viaggiato per più di 2 o 3 ore, perché il suo cappotto è ancora umido. Quindi, dove c'è stata pioggia pesante e forte vento nel raggio di quella distanza? A Cardiff. Patrizia, niente di più reloaded di un giovane Sherlock Holmes alle prese con la tecnologia moderna per risolvere i crimini. Sì, Sherlock Holmes, parliamo della serie, è assolutamente reloaded, riattualizzata, per inciso molto più fedele al romanzo di Conan Doyle di quanto non sia il film. La serie è ambientata nella Londra di oggi. Sherlock è un dandy metropolitano, un po' sociopatico, iPhone dipendente. I suoi casi brillantemente risolti circolano in rete anche grazie al Fido Watson, che li posta regolarmente sul suo blog, e tutto questo sapientemente diluito nell'atmosfera generale di una Londra che rimane retro.